America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, anzi più che da New York dovrei dire da Randall's Island. Randall's Island è un isolotto di fianco a Manhattan, di fianco all'East River, e devo dire è uno di questi posti che sono sconosciuti ai turisti che vengono in città, ma non ai turisti appassionati d'arte, perché in questo momento vi sto parlando della Freeze Art Fair, che è diventato uno degli appuntamenti più importanti per le fiere d'arte internazionali. È nato nel 2003 a Londra e questa è la seconda edizione. C'è un capannone, devo dire, enorme, lungo quasi un chilometro, largo 50 metri, 23.000 metri quadrati di superficie, 180 gallerie che espongono da oltre 30 paesi nel mondo e ovviamente centinaia di artisti, gallerie piccole, gallerie grandi. Ecco, il mese di maggio è un mese particolare, perché Freeze avviene adesso perché in maggio tradizionalmente le gallerie a New York espongono le opere nuove dei loro artisti, ma proprio perché maggio è così intenso e per darvi un'idea di questa intensità sono andato nei giorni scorsi a visitare una delle più importanti gallerie d'arte del mondo, la Gagosian, e ho seguito tre mostre diverse. Ecco, vi faccio sentire le registrazioni e le chiacchierate che ho fatto in diretta proprio da queste tre mostre, due a Chelsea e una su Madison Avenue. Sono qui in una galleria molto importante di Gagosian, c'è una mostra di Ansel Kiefer, sono le ultime opere di questo straordinario artista tedesco. Ho con me Pepi Marchetti, che lavora con Gagosian e alla quale intanto chiedo, insomma, Kiefer, ma qual è la storia di Kiefer? Raccontiamo l'artista intanto, Pepi. Senz'altro uno degli artisti più straordinari del nostro tempo, un grandissimo pittore e uno straordinario anche scultore. E questa è una mostra che presenta il suo ultimo lavoro, Der Morgenthau Plan, un lavoro dedicato a una visione che per fortuna non fu mai realizzata, ma un programma ideato dal segretario di Stato americano Henry Morgenthau alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che prevedeva l'azzeramento dell'industria pesante tedesca per far sì che la Germania non potesse più diventare una potenza bellica e la trasformazione della Germania in un paese agricolo. In un grande campo di grano. In un grande campo di grano che però, come sempre nel lavoro di Kiefer, poi parla di morte e di rigenerazione dalla morte, perché il suo è un lavoro che... E lui usa una tecnica, se non sbaglio, che usava un tempo, cioè di avere delle fotografie e poi su queste fotografie... Lavorare con la pittura e con in maniera molto materica. Per cui la fotografia viene completamente cancellata e funziona semplicemente da base, da ispirazione. Diamo un'idea, oscillano tra i 500 e il milione di euro. Molti di questi sono stati venduti, esatto. E ce ne sono un paio, esatto. Questa sera saranno, esatto, sicuramente venduti, esatto, entro domani mattina. Ecco. La mostra ha avuto un grandissimo successo, come d'altronde succede sempre con Ansel. Come un vero opening... Devo dire, ci sono molte personalità newyorkesi. Il direttore di musei, sì. Collezionisti, il direttore del Guggenheim, il direttore del Metropolitan sarà con noi questa sera. Bene, allora Pepi, continueremo con la prossima mostra a Cecil. Continua la maratona degli exhibit di Larry Gagosian. Questa volta siamo a Madison Avenue, nella galleria di Madison Avenue. Una galleria, devo dire, enorme e soprattutto con una meravigliosa terrazza, perché la mostra che c'è qui, uptown, come si dice, quindi non downtown a Chelsea dove eravamo l'altra volta, è una mostra dedicata a Cecily Brown, che è un'artista inglese che vive a New York. E ho di nuovo con me Pepi Marchetti, che è la protagonista poi della maratona. Buongiorno Pepi. Ciao Mario. Ecco, quindi è il primo solo dal 2008, se non sbaglio, giusto? Sì, c'era molta attesa proprio per questa mostra di Cecily, perché proprio dal 2008 non si vedeva una sua mostra a New York. E in effetti queste opere sono desideratissime. La mostra è sold out già da qualche giorno, prima dell'apertura. Dimmi a quanto sono andate, qual è stata la media di vendita di questi quadri? Dunque, dal meno caro al più caro. diciamo, il range? Sono dei lavori che vanno tra i 400 e gli 800 mila dollari, a seconda delle dimensioni. Quindi appena poco sotto quella che era la media di Hans & Kiefer? Sì, diciamo, questi sono lavori comunque, ce ne sono sicuramente anche molti di meno, come disponibilità in generale, perché è un artista che dipinge molto poco e comunque è un artista che ormai, pur essendo giovane, è considerata una delle mani più felici della pittura contemporanea. Sì, perché devo dire, queste sue figure stanno straordinarie, perché sì, sembrano molto astratte, però poi le vedi. La sua è sempre stata una pittura molto in tensione tra astrazione e figurazione. E infatti chi la segue l'ha vista anche passare attraverso delle fasi molto diverse. I dipinti del 2008, per esempio, erano dipinti in cui di solito campeggiavano uno o due figure principali, rese con delle pennellate molto, molto forti. E successivamente poi c'è stata una fase invece più astratta e adesso siamo tornati ad una miriade di figure, perché poi questi sono dei quadri in cui il volto prende il sopravvento, quantomeno i volti prendono il sopravvento. Senti, chiudiamo con la nota social. Abbiamo detto un po' chi c'era nell'altro parte. Qua ho visto, se non sbaglio, Sid Bass. Sì, Sid Bass, Bob Colasello, Jay McInerney, lo scrittore, esatto, Susan Morrison, c'è Calvin Tompkins, Rachel Feinstein e John Curran. Insomma, anche stasera chi ha comprato? Questo non possiamo dirlo. Sempre a Chelsea, siamo tornati downtown, sulla 24 c'è una mostra di Jeff Koons, sono i nuovi lavori di Jeff Koons. In questo momento sono nella grande, una enorme sala dove ci sono tre, direi, sculture che rappresentano quel classico marchio di fabbrica di Jeff Koons, che sono i palloncini che hanno delle rappresentazioni figurative. Per esempio, qui davanti a me c'è questa enorme riproduzione di un palloncino, sono sculture poi in realtà di acciaio lucidissime, ci si specchia, che rappresenta un cigno. E con me ai microfoni di America 24, Rebecca Sternhard. Hi Rebecca. Hello. Hi. So, I mean, tell me why this exhibit now about Koons with this? Well, we're showing three different bodies of work. In this gallery you see the balloon swan, the balloon monkey and the balloon rabbit. Bene, allora mi dice che qui ci sono appunto delle sculture, e c'è la più recente, è questa della scimmia, una scultura rossa, bellissima, molto rotonda, rotondeggiante, e poi ci sono anche questi dipinti, che sono dei dipinti ispirati ai classici, agli antichi classici dell'antica Grecia, ma anche un omaggio ad altri pittori come Rubens, per esempio, o altri grandi artisti internazionali. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Scriveteci su Facebook. Da New York è tutto, anzi dalla Freeze Art Fair di Randall's Island è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. America 24.